Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo con il sabato del villaggio. L'appuntamento con il gastronauta, la tendenza è molto letteraria. Poi andremo insieme per osterie, le uscite al cinema con le novità in sala. Con Enrico Pagliarini parliamo di instant messaging, WhatsApp e non solo. E a questo proposito il numero per i vostri WhatsApp è 349-238-6666. Stesso numero se preferite mandarci un SMS, oppure c'è anche il mio account di Twitter, @ Marta Cagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Ma iniziamo inevitabilmente con il grande appuntamento della prossima settimana. Beh, lo sappiamo che quando c'è questa canzoncina tutti pensano subito, perché Sanremo e Sanremo, ci siamo quasi, abbiamo fatto un po' di marcia di avvicinamento in queste settimane, in questi mesi, ma sta per partire. Stiamo per partire anche noi di Radio 24 e poi vi ricorderò tutti i nostri appuntamenti con il Festival di Sanremo che inizia martedì. E per sapere tutto quello che dobbiamo sapere per prepararci a Sanremo ci colleghiamo con il nostro super esperto preferito, Eddie Anselmi. Ciao Eddie! Ciao Marta, ciao all'ascoltatrice e agli ascoltatori di Radio 24. Sei già a Sanremo o sei ancora in partenza? No, per sapere. Sono con la valigia in mano che sto per accingermi a prepararla. Ah, ecco, io la preparo stasera perché io parto domani alle 11, Domani parto anch'io. Eddie, allora, sai, la prima domanda che mi fanno tutti in questi giorni è: sì, è la prossima settimana, ma quando inizia? Inizia martedì, esatto, è un Sanremo a 5 serate, come ormai di prammatica da metà degli anni 90. Sono 21 anni che saremo a 5 e quindi inizia il martedì. È iniziato anche lunedì una volta, quando magari c'era una partita della nazionale. Sì, perché magari il martedì o il mercoledì c'era nazionale, ora ci si fermava per un giorno, ecco. E invece credo che sia dal 2008 che non ci si ferma più. Martedì, sabato, saremo a 5 serate. Gli appassionati di calcio, e anche tu sei un appassionato di calcio, mi hanno chiesto: ma come, ma non spostano Sanremo sabato sera, che c'è Inter, Juventus-Napoli e non spostano né la partita né Sanremo, ci sono tutte e due sabato sera? Esatto, non spostano né l'incontro né Sanremo, questa è una, non è la prima concomitanza che c'è, la prima volta credo che fosse nel 90, ci fu una semifinale di Coppa Italia, un Juventus-Milan che andò a confliggere contro la trasmissione del festival, erano i primi tempi delle partite in diretta del calcio tutti i giorni, e alla fine insomma si fu una lieve flessione durante la partita e poi Sanremo si riprese. Straordinario. Allora, quest'anno abbiamo 20 campioni e 8 giovani, è così che funziona? 20 campioni e 8 giovani, la formula è la stessa dell'anno scorso con una piccola variante. Allora, dopo sì, intanto il pubblico vuole sapere se può votare, se c'è il televoto, se si può esprimere la propria preferenza. Giorni, ah, sempre. Tutti i giorni, tutte le sere si può televotare da casa. Tutte le sere e anche un pomeriggio. Perché? Cosa succede? Per farla breve, la prima, la seconda e la quarta sera sono come una lunga manche eliminatoria. I voti si sommano e per stabilire i 15 campioni che vanno direttamente in finale e i 5 che vanno al ripescaggio. Il ripescaggio, che si apre immediatamente dopo la serata di venerdì, è solo al televoto. Tra 5 persone al ripescaggio, 4 saranno eliminati e uno sarà ripescato. Da chi? Dal pubblico. E si vota tutto il giorno, fino quasi all'apertura, della serata del sabato. Quindi ci sono 5 big o campioni che per tutto il venerdì fino al sabato pomeriggio non sapranno se sono eliminati o no, perché uno di loro verrà ripescato, diciamo. Esatto. Così. Esatto, e quindi devono tenere l'albergo a Sanremo. in effetti devono comunque dormire una notte in più, che costano gli alberghi a Sanremo una notte in più, eh. Non posso neanche dire faccio il late check out, ve ne vado prima, no, devono rimanere lì. Devono rimanere tutto pomeriggio. Allora, poi il voto è un po' televoto, e quindi anche perché devi sapere che ci sono un sacco di gruppi d'ascolto anche a Radio 24, anche gli insospettabili mi confessano che fanno il gruppo d'ascolto con gli amici, con le lasagne, le patatine, le schede di votazione, e poi la voglia di televotare ce l'hanno tutti, quindi questo si può fare. Però decidono anche delle giurie, le giurie di qualità, la sala stampa. Allora, sei preparato sul... è una domanda retorica, sei preparato sul regolamento? Allora, le prime, dicevo, tre serate, che poi in realtà sono la prima, la seconda, poi il giovedì c'è la grande gara del karaoke, che è un intermezzo, e poi dopo si riprende la gara del Sanremo, la quarta del venerdì, decidono un po' tutti, ovvero una parte la sala stampa, una parte la giuria di esperti, una parte la demoscopica e infine il televoto. Sono quattro panel che si incrociano e alla fine questo classificone che sancisce i 15 qualificati e i 5 tra cui scegliere i 4 eliminati si forma con una torta dove il 45% è televoto, il 25% è sala stampa e il 15% sono le altre due panel. La serata finale cambia tutto, la sala stampa non vota più e il risultato della serata finale è 40% televoto, 30% demoscopica e 30% giuria di esperti. Allora, abbiamo preso appunti, anche se non sono tanto brava con la matematica, ho capito. I super ospiti, perché per tanti anni abbiamo avuto gli ospiti solo stranieri, invece da qualche anno gli artisti che non concorrono di più a torto o a ragione a Sanremo si presentano come super ospiti. Elisa, Ipù, Renato Zero, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. È Cristina D'Avena che si è aggiunta per la serata finale. Io già faccio un tifo indiavolato per Cristina D'Avena, perché sono tutti già vestati a Sanremo come super ospiti. Sì. Tranne Cristina D'Avena. Ah, lei, ma io sogno Cristina D'Avena in gara, in realtà. E lo dico sempre anche a lei, perché abbiamo un. Sono molto amica di sua sorella, e allora ogni tanto le dico: ma io voglio Cristina in gara a Sanremo. Ma magari con questo primo step come super ospite, chi lo sa per il futuro. Nel frattempo sono arrivati nomi come quello di Nicole Kidman, sono arrivati comici, cioè Aldo, Giovanni e Giacomo, ci sarà Nino Frassica. Io sono molto molto molto molto contenta, perché mi aspetto grandi cose da quello che poi è un po' il mi aspetto grandi cose, una citazione dotta, perché c'è una canzone, mi aspetto grandi cose come sempre da te, questa è solo per iniziati, lo diciamo, 19 anni fa i Jalis dicevano saremo con una canzone che iniziava proprio con questo verso. Io mi aspetto allora l'anno prossimo i Jalis super ospiti, perché se l'anno prossimo è l'anniversario già. Ma dopo 20 anni che provano inutilmente a tornare in gara sarebbe un risarcimento. Esatto, hai ragione Eddie. Noi quest'anno a Radio 24 ci schieriamo perché tra i 20 campioni c'è Enrico Ruggeri. E quindi noi non possiamo non tifare per il nostro conduttore del Falco e il Gabbiano. Come seguiremo il Festival di Sanremo da Radio 24? Allora, io sono in partenza, ho il treno domani pomeriggio, da martedì giornali radio, trasmissioni, mi troverete in orari a caso quasi sempre durante la giornata, e in più uno speciale Sabato del Villaggio che andrà in onda sabato prossimo per 3 ore puntuali, però da Sanremo. Ma tutti i giorni ci sarà uno speciale Falco e il Gabbiano all'orario consueto di Enrico Ruggeri, dedicato ai suoi grandi festival del passato, e in più nel giornale radio delle 7 e in effetto giorno Enrico Ruggeri ci regalerà i suoi retroscena, i suoi backstage da cantante in gara con il Sanremo di Ruggeri, quindi GR delle 7 e GR delle 13, cioè effetto giorno. Nel frattempo io ho incontrato Enrico, perché sentita la canzone è il pezzo più rock, non ve la posso ancora canticchiare anche se la so già a memoria, perché Enrico ci tiene molto, è un pezzo molto forte, è il pezzo più rock del festival. Allora, abbiamo parlato di questo, il primo amore non si scorda mai, proprio con Enrico Ruggeri, che ci ha detto questo, ci ha raccontato così. a Sanremo sono i brani rock sono sempre andati male, fatta eccezione per un caso, Sanremo 93, Mistero. Tutte le altre volte, insomma, il rock è stato un po' penalizzato, però insomma io sì, ho sempre pensato che a Sanremo esistano tre classifiche. C'è quella del sabato sera o del venerdì, e lì, vabbè, insomma, questo benedetto premio qualcuno se lo deve pur portare a casa, e quindi una volta c'è il TOTIP, le giurie, adesso il televoto, va bene. Poi c'è la classifica delle vendite dei dischi, e poi c'è la classifica del tempo, che è quella che mi interessa di più. Come mai tornare a Sanremo? Ma in realtà Sanremo è un veicolo velocissimo per diffondere i progetti che hai, e quindi in questo senso è sicuramente allettante. E in Sanremo, quando vai a Sanremo, in 20 giorni condensi la promozione, che in genere fai anche in maniera più spezzettata, in 4 mesi. E non dimentichiamo che il mondo dei media in quella settimana miracolosamente riscopre tutto l'appeal della musica, no? Cosa che non sempre accade nelle altre 51 settimane. Poi io mi diverto, insomma, non ho mai fatto una malattia per andarci, però non sono mai stato, non l'ho mai snobbato. In fondo credo di essere il cantautore che è andato più spesso a Sanremo nella storia del festival. Per cui antropologicamente è molto interessante, perché è molto io mi diverto molto a Sanremo, perché vedi questo mondo che si prende incredibilmente sul serio. Tu stesso quella settimana hai questa malsana sensazione di essere al centro del mondo, ti sembra che tutto verta attorno al festival, poi torni a casa e ti accorgi che nel frattempo hanno fatto le guerre, cioè uno ha buttato la moglie dalla finestra, è successo tutto quello che succede nelle altre settimane. Però lì, quando sei lì al festival, e chi c'è stato lo sa, ti sembra che il mondo sia lì. Ovviamente non è vero, e questo è anche costato caro a molti ragazzi che sono sbarcati lì la prima volta e che poi hanno avuto anche un risveglio brusco, però di per sé è divertente, no? Occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero! Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Se avessi dovuto scegliere una delle tue vecchie canzoni di Sanremo, quale avresti ricantato? Quale ti darebbe più emozione ricantare? È difficile dirlo, perché ognuno è un periodo. Contessa era la arroganza dei ventenni. Il primo Sanremo lo ricordo come l'unico in cui io ero certo che andasse bene. Allora, oggi rabbrividisco a pensarlo, però io ero sicurissimo che sarebbe andata come è andata, perché eravamo troppo diversi da tutti. E per cui il primo amore non si scorda mai, quindi forse Contessa. Però insomma, portarsi a casa il premio da non favorito, come quando ho vinto con Mistero, abbiamo già detto più volte che non serve a nulla vincere il festival, però in quel momento, quando vinci, ti porti a casa il premio, festeggi, c'è molta euforia. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Beh, questa Contessa era veramente forte. Eddie, il nostro super esperto di Sanremo, Eddie Anselmi, ti chiedo solo, per concludere, un flash a scatola chiusa: chi è il tuo favorito, quello su cui si appuntano di più le aspettative, Eddie?

a Sanremo non è che ci sia, lo so. Ci siano tanti ai grandi noi, però. Ai noi, vabbè, ce n'è vabbè. Uno molto noto, però è molto caro. Quello magari non lo consiglio. Dai, vedremo la prossima settimana. Ti do i compiti a casa. Al prossimo sabato. Grazie. Ciao Davide Paolino, e ci ritroviamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Il sabato del villaggio. E torniamo in diretta con il sabato del villaggio. Per contattarci gli sms 349-238-6666, numero che va benissimo anche per i vostri WhatsApp. Oltre al mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Abbiamo dato il numero dei WhatsApp. Perché? Ma perché parliamo proprio di messaggi? You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline bling. Che bella questa canzone di Drake, mi piace tantissimo, anche se non capisco perché lui si lamenti che lei non lo chiama più. E chiamala tu, scusa, se lei non ti chiama. Cioè, si può anche così cedere un po' e telefonare. O perlomeno mandare un messaggino, mandare un WhatsApp, non lo so. Parliamo di messaggeria istantanea, instant messaging. Non so come si possa dire in italiano, se è il modo giusto per parlarne. Buongiorno Enrico Pagliarini. Buongiorno a tutti, ciao. Mi piace tanto quando sei collegato da strani posti. Io non ti vedo, però so che ci sei. Non voglio sapere dove sei, so che ci sei. Beh, possiamo anche mettere su un sistema di oltre che la messaggistica istantanea, sì, di video comunicazione, no? Ecco, perché poi ci sono tra l'altro dei servizi di messaggistica istantanea che prevedono anche le chiamate, come ad esempio WhatsApp. Esattamente. Allora raccontami un po'. Questa settimana WhatsApp, che appartiene a Facebook, ricordiamolo, che magari uno si dimentica, WhatsApp sì, anche quella di Facebook. Sì, poi come consumatori dovremmo anche sapere da dove vengono queste applicazioni, per sapere che cosa stiamo utilizzando, visto che questi sono sistemi, per la stragrande maggior parte, che utilizzano dei server centrali per collegarci. Cioè, quando io parlo con te tramite WhatsApp, i miei messaggi passano attraverso dei server che sono ragionevolmente, allora non sappiamo di preciso dove si trovano, però è ragionevole pensare che siano negli Stati Uniti, e questo apre tutto un tema molto vasto di cui si sta occupando anche l'Unione Europea, bla bla bla. Però come consumatori, secondo me, è utile saperlo. Allora, WhatsApp ha dichiarato di aver raggiunto il 1 miliardo di utenti. È l'applicazione mondiale più utilizzata al mondo. In un mercato che è un gran caos. Pensa che ci sono una cinquantina di sistemi analoghi che fanno più o meno le stesse cose. Poi in realtà ne vengono utilizzati pochissimi, cioè molti di questi, alcune decine di questi sistemi sono veramente molto poco utilizzati. Anche perché se io ne installo uno, mi aspetto di installare quello che usano tutti gli altri, perché se lo installo solo io. Esatto, però questo potrebbe essere un motivo per non installare WhatsApp. Poi ci arriviamo. Sì. No, giusto per citare sistemi utilizzatissimi, allora cito il secondo e il terzo in classifica. Allora, il secondo è uno noto, è Facebook Messenger, è il sistema di messaggistica in tempo reale integrato in Facebook. Ce l'ho, mi sta molto antipatico, ma ce l'ho. Sì, infatti anch'io non lo uso praticamente mai. Il terzo in classifica, che è vicino al miliardo di utenti, è QQ Mobile, roba cinese sconosciuta. No, questa è roba cinese. No. Che non... Anche perché adesso io lo dico agli ascoltatori: io installo quelli che Enrico mi dice di installare. Questo non ho mai detto installalo, quindi io non ce l'ho. No, infatti io non saprei neanche come fare a installare. Presumo che tu debba essere cinese, sì, devi essere proprio in Cina e avere uno smartphone attaccato ad una rete cinese. Poi la lista è veramente lunghissima. Su WhatsApp spendo altre due parole e poi passiamo ad altro. Forse è utile sapere che quando siamo davanti ad un computer esiste anche una versione di WhatsApp web, cioè possiamo utilizzare WhatsApp non sul nostro smartphone ma sul computer, quindi con la comodità dello schermo ma soprattutto della tastiera, visto che siamo davanti ad un computer. La cosa è molto semplice, funziona su tutti i browser, quindi su tutti i programmi di navigazione, Firefox, Chrome, Opera, Safari e da pochi giorni anche su Edge di Microsoft, visto che fino a qualche tempo fa Microsoft era rimasta un po' in castigo, però adesso WhatsApp Web funziona anche, anche in quel caso. Molto, molto semplice, si va sul sito internet, si clicca su WhatsApp Web, appare un QR code, cioè uno di quei codici simil codice a barre ma quadrato. Quelli coi quadratini. Coi quadratini, esattamente. Si apre l'app sullo smartphone, cioè è una di quelle cose che è più facile a farsi che a dirsi, però giusto per spiegare come si fa. Si apre la app lettrice di quadratini. Esattamente, sì, sullo smartphone si apre proprio l'app di WhatsApp, si cerca WhatsApp Web, si inquadra con la fotocamera dello smartphone il codice che c'è sullo schermo del computer e il sistema accoppia l'account, quindi da quel momento il mio account che ho sullo smartphone lo posso utilizzare sullo schermo del computer ed è molto più semplice. Non ci sono numeri che ci dicono quanto è popolare, però vedo che molti continuano a utilizzarlo solo sullo smartphone, ma devo dire che quando uno passa alcune ore davanti ad un computer, perché non utilizzare quel sistema, certo, che è molto più comodo. Infatti, e fa esattamente magari sto la lavorando cosa. Davanti al computer o la tastiera è comodo utilizzare. Esattamente, esattamente. Allora, dicevo prima che proprio il fatto che WhatsApp ce l'hanno in tantissime persone, diciamo che forse la stragrande maggioranza delle persone che hanno uno smartphone ha anche installato WhatsApp, se pensiamo che c'è un miliardo di utenti in tutto il mondo. E questo effettivamente è uno dei motivi di successo e uno dei vantaggi, cioè io se voglio utilizzare questo sistema posso immaginare che il mio interlocutore ce lo abbia, quindi lo installo e lo contatto tramite WhatsApp. Però potrebbe valere anche il contrario, infatti io conosco alcune persone che hanno detto no, io non lo installo perché sennò tutti mi scocciano, tutti mi contattano tramite WhatsApp. Allora uno potrebbe ad esempio o con un interlocutore singolo oppure all'interno di un piccolo gruppo decidere di utilizzare un'applicazione alternativa per far sì che si rimanga in quel gruppo e non ci sia la possibilità da uno sconosciuto, comunque anche da un conoscente che magari ci vuole scocciare sul sistema di messaggistica in qualsiasi momento, questa potrebbe essere una scelta per escludere, tenere fuori persone che non vogliamo. Sai secondo me qual è la verità? È che non vogliono essere aggiunti ai gruppi, perché i gruppi di WhatsApp sono il male. Sì, perdita di tempo assoluta, sono d'accordo. Sì. Quindi, non so, il gruppo dell'ufficio, dei figli a scuola, non ho WhatsApp, così si evita la scocciatura. Esattamente, certo. Allora, che cosa offre il mondo? Allora, ne cito tre, perché appunto non è che facciamo una lista di 25. Io e te ogni tanto usiamo Telegram, che fa più o meno le stesse cose, è un bel sistema di messaggistica, funziona molto bene. Un altro che fa più o meno le stesse cose è Viber, scritto Viber. Telegram è scritto Telegram, molto semplicemente. Sì. Telegram è scritto Telegram. È scritto bene. Telegram. Ecco, poi cito Skype, perché Skype sembra essere stato dimenticato, ormai forse un po' meno di moda, però è un ottimo sistema anche per la messaggistica e c'è una novità degli ultimi tempi, io ne ho parlato recentemente, ho fatto anche una prova, magari una volta facciamo una prova anche al Sabato del Villaggio. Una nuova caratteristica di Skype è la possibilità di tradurre in tempo reale un interlocutore che parla un'altra lingua. Adesso le lingue supportate sono tre o quattro, sono il cinese, che quello è importante perché sai inglese, sì, francese, tedesco, magari lo sa, esatto, sì. L'inglese, il cinese, sicuramente l'italiano e direi lo spagnolo, ma insomma poi nel giro fammi capire, io posso usare via Skype con un cinese e Skype mi traduce quello che mi sta dicendo il cinese, esattamente, allora lo traduce nella versione parlata. Allora sapete che questi sistemi hanno varie possibilità, cioè possiamo o dialogare scrivendo oppure quasi tutti questi sistemi permettono anche di fare una chiamata audio, ok? Quindi io chiamo te e noi invece di scriverci, ti scrivo un messaggio, tu mi rispondi e via così, possiamo anche parlarci come fossimo al telefono. Allora Skype ha questa possibilità di tradurre in tempo praticamente reale, cioè io parlo in italiano, dall'altra parte c'è un cinema. Pensate per alcune chiacchierate di lavoro quanto certo, utile può essere questo sistema. Soprattutto pensavo appunto, cioè... E devo dire che il sistema è molto, molto ben fatto, affidabile, cioè traduce al 90% le cose corrette. Incredibile. Magari una volta facciamo una prova. Una volta chiamiamo qualche, troviamo un cinese. Qualche cinese che ci voglia dare la sua, così, la sua disponibilità, sì, e proviamo a vedere se le traduzioni Quindi questa, sono giuste. Bello, questa piace. È una caratteristica che fa di Skype un sistema ancor più completo e devo dire competitivo con gli altri. Dopodiché è vero che quasi tutti questi sistemi di messaggistica in tempo reale fanno al 90% più o meno tutte le stesse cose, sono quasi tutti gratuiti, ma se vogliamo fare un passo in avanti potremmo anche scegliere alcuni prodotti a pagamento. A questo punto uno potrebbe domandarsi perché devo pagare un sistema che fa le stesse cose che fa un'applicazione gratuita. Allora, ovviamente per motivi di sicurezza, per motivi di privacy, per motivi di cifratura dei messaggi, cioè i sistemi che costano qua, stiamo parlando di sistemi che costano pochissimi euro, però ci garantiscono una maggiore protezione di questi messaggi. Ricordiamo che questi messaggi, quando io appunto mi scambio un messaggio con te, questi messaggi sono nel web, transitano attraverso server che, nel caso vengano attaccati, bucati da hacker, potrebbero finire in mani sbagliate. È ovvio che se ci raccontiamo quello che abbiamo fatto il sabato pomeriggio, uno potrebbe dire vabbè, chi se ne frega. Però visto che questi sistemi ormai vengono utilizzati anche per lavoro, e ci certo, sono delle aziende che si scambiano delle informazioni che potrebbero anche essere sensibili, o comunque pensiamo personaggi, non dico solo pubblici, ma anche professionisti che si scambiano informazioni, che potrebbero vedersi poi queste informazioni finire chissà dove. Uno potrebbe, mentre sta ascoltando queste considerazioni, potrebbe dire vabbè, ma chissà, finché non succede. Quando poi succede uno... Allora, cito prima del traffico l'applicazione che secondo me al momento forse è la più interessante per chi vuole essere sicuro al 100%, che si chiama Threema, è scritto T-H-R-E-E-M-A, Threema, T-H-R-E-E-M-A. Okay. È un'applicazione svizzera, costa 2,50 euro, quindi non è che stiamo parlando di due cappuccini si può fare. Sì. E secondo alcuni studi che sono stati fatti da alcune associazioni che si occupano di privacy, pare che sia la più sicura al momento, quindi è interessante. Vabbè, la proviamo anche quella, Enrico. Un ascoltatore, Antonio, al 349-238-6666 via WhatsApp appunto, ci scrive che la traduzione la fa da anni WeChat ed è anche molto meglio di WhatsApp come sistema di messaggistica. Allora, sì. Allora, sconsiglio di usare WeChat perché è cinese. A proposito di quello che dicevo prima, di dove sono i server, eccetera, eccetera. E quindi tu dici io non un l'ho server messa che in classifica. Là, non... se devo scegliere tra gli americani e i cinesi, preferisco gli americani. Va bene, poi è una ognuno decide di... quello che vuole. Okay, nel consumo critico c'è anche questo. Allora, Enrico, ti faccio riflettere su questa tua affermazione per qualche istante, perché sono le 15:45 precise. Ci ritroviamo tra qualche istante perché abbiamo il traffico e poi saremo ancora insieme con Enrico Pagliarini con il Sabato del Villaggio. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta il Sabato del Villaggio. Everyone's talking just to fill some space, and everything's nothing till it means heartbreak. Words without power just questo brano, che si chiama Hello, l'ha trovato Christian Goldoni, lei è Catherine McNamara, io mi fido, il pezzo era carino e non la conoscevo, molto carina. Hello, stiamo parlando non tanto di telefonate quanto di messaggi che viaggiano attraverso i telefonini. Abbiamo citato molti servizi di messaggistica, abbiamo ancora in linea Enrico Pagliarini, abbiamo ancora qualcosa su questo argomento o passiamo a, so che non è l'app della settimana ma qualcos'altro, hai ancora qualcosa? No, visto che no, sì. No, abbiamo detto tutto. Sì. Tra parentesi, McNamara è uno dei miei cognomi preferiti. mi sembra che sia un cognome scozzese, comunque mi piace un sacco. Ti piace molto, è bello McNamara. Però c'entra niente. Abbiamo parlato di applicazione. Allora, invece sì. di fare la app della settimana, facciamo il gadget della settimana. Oh, il gadget della settimana, bello, bello. Quella cosa inutile che adesso avrò voglia di comprarmi. Esatto, ma adesso ti dico. Allora, a Consumer Electronics Show ho visto alcune startup e quindi per il momento siamo ancora in fase di prototipi e nulla di ancora commerciale, però c'è un fermento su sistemi per diffondere profumi e aromi nelle case. Allora, no. Se già oggi sul mercato l'odorama. Ci sono... Sì, già oggi sul mercato ci sono dei diffusori di aromi di vario genere. Però non mi pare che ci sia ancora molto poco da connettere allo smartphone, quindi all'interno del più ampio tema della smart home, di cose che stanno in casa che si connettono a internet, le possiamo pilotare dallo smartphone. C'è però una società, cioè una startup giapponese che ha fatto un prodotto che si attacca allo smartphone, non solo si collega, ma si attacca proprio allo smartphone tramite il jack della cuffietta. Ok. Ci sono varie cose che si possono attaccare col jack della cuffietta e questa è la più inutile. Questa è forse la più inutile, esattamente. Negli Stati Uniti ha fatto successo un lettore di carte di credito, però questa invece serve solo per diffondere aromi, si chiama Shentè, allora. Costa una cinquantina di dollari, lo si attacca e uno dice: ma perché devo metterlo nello smartphone? Perché ad esempio alla mattina può essere pilotato dalla sveglia dello smartphone e riempirmi la stanza di odori più vari. Ci sono vari, perché poi questi ragazzi giapponesi vendono anche le cartucce, 7 dollari l'una. Ci sono le cartucce profumate alle rose, al rosmarino, al caffè, alle fragole, e penso più passa il tempo più magari aggiungeranno aromi di vario genere. Beh, è comunque diciamo un'idea che... e vedrete che succederà, insomma, è una roba che uno si una roba completamente inutile che uno si compra per fare il figo una sera tra gli amici. Sì, a meno che tu sia una credente della aromaterapia. Non frequento tanto. Ecco, non lo so. No, beh, devo dire che è un 50 dollari l'aggeggino e 7 dollari a... Perché ovviamente tu metti la cartuccia solo con quel profumino, non è che è una cosa che viene... Potresti prendere due smartphone e fare dei mix vari. Certo, però non so cosa ci salta fuori tra il rosmarino e le rose. No, pensavo già alla mattina per la sveglia, uno l'odore di cappuccino e l'altro l'odore di croissant. Così per fare. Ah, sì, però non c'è l'odore di croissant. Non c'è. Enrico, dopo questa imperdibile, imperdibile l'aggeggino puzzettino per lo smartphone, diamo l'appuntamento con 2024 e con il podcast. Andate sul sito di Radio 24 oppure vi iscrivete. Adesso sto facendo un sondaggio su le applicazioni per i podcast più utilizzate. Allora, su Android la numero uno è Podcast Addict. Sì. E invece su iOS è l'applicazione podcast dell'Apple. Infatti io su, perché è facile. Su iPad ho quella lì. E sono esattamente quelle che uso io. Allora, i podcast di Radio 24, comunque basta andare sul sito www.radio24.it. Enrico, anche a te do l'appuntamento alla prossima settimana in collegamento con Sanremo. E anche a te do dei compiti a casa, tirami fuori qualcosa di musicale. Sì, la prossima settimana indoviniamo in anteprima il vincitore tramite la tecnologia. Alla tecnologia. La tecnologia a quest'ora ci dirà già chi vincerà Sanremo la sera. Sì. Predictive Analytics. Ma dobbiamo giocarci anche dei soldi. Vabbè, facciamo una scommessa tra noi due per vedere non se lo poi... so. Non lo so, vediamo se la tecnologia. Qualcosa si potrebbe giocare. Va bene. Sì. Grazie Enrico Pagliarini per essere stato, anche se virtualmente, con noi, collegato da non so dove. L'appuntamento con Enrico è appunto alla prossima settimana, al prossimo sabato del villaggio, perché adesso, come sempre, a quest'ora è il momento di dedicarsi un po' al cinema e a tutti i film che usciranno, che sono usciti in sala questo fine settimana. Con la colonna sonora di Ennio Morricone, che ormai abbiamo imparato già a conoscere tutti, torniamo a parlare di The Hateful Eight di Quentin Tarantino, e lo facciamo col nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Sì, perché ne abbiamo parlato tanto la scorsa settimana, perché alcuni fortunati e avveduti sono già andati a vederlo nei primi giorni, diciamo di anteprima, aperta al pubblico solo per chi l'ha visto nella magnificenza dei 70 mm, ma adesso questo fine settimana esce in tutte le sale. Assolutamente. E lo consigliamo? Beh, allora, sullo consigliamo è aperto il dibattito, tanto non serve una risposta perché il primo giorno di programmazione ha già fatto quattro volte tutti gli altri film, quindi Tarantino non ha bisogno di noi. Non ha bisogno di noi. Però detto questo, poi invece alla Rosa Purpura il dibattito su Tarantino e con Tarantino ci sarà, perché avremo un'intervista esclusiva con Quentin Tarantino, proprio realizzata dal nostro Boris Sollazzo a Roma, che ci racconterà un po' degli aspetti del suo film. Però sì, per rispondere alla tua domanda, Marta, c'è dibattito perché siamo di fronte a un aspetto estetico, come sempre, di straordinario livello: musica, fotografia, regia, recitazione, dialoghi che sono proprio l'essenza, la quintessenza di Tarantino. Se però si chiedeva a questo film una spallata, uno squarcio di novità, ecco lì magari le tre ore e qualcosa del film sono state utilizzate più per un enorme e bellissimo esercizio di stile che non per portare avanti un po' la storia del cinema di Tarantino. Quindi c'è un po' di divisione, e sentiremo anche le voci all'uscita sala da parte del pubblico, una divisione che riguarda anche il pubblico. Il giudizio non è unanime, rimane, a mio modo di vedere, un film assolutamente da vedere. Altri film in uscita questo fine settimana, ce n'è uno dal titolo lunghissimo, un po' vintage, 1981, puntini puntini puntini, raccontami un po' di questo. Indagine a New York, 1981, Indagine a New York, ma come è un po' vintage. Sì, è un po' vintage, però quello italiano, perché quello come originale, al come al solito, A Most Violent Year, era un titolo che spaccava, come dicono i giovani. Però abbiamo una connotazione, quel 1981, che effettivamente è stato l'anno più violento statisticamente a New York di tutto il secolo scorso. In questo contesto di violenza diffusa si svolge la storia, diretta da J.C. Chandor, che era il regista di Margin Call, per intenderci, per citare un film molto bello degli ultimi anni che ha raccontato la crisi subprime e tutto quello che ne è venuto fuori. I protagonisti sono Oscar Isaac, che ha preso il posto di Javier Bardem, che doveva essere invece il protagonista primo chiamato. Ci piacciono entrambi, ma devo dire, secondo me Oscar Isaac ci sta meglio in questo film qua. Sì, può essere, E Jessica Chastain, che è sempre una grande attrice, nei panni di una coppia che gestisce un'azienda che sta nel campo del petrolio, degli idrocarburi, e che si sta allargando i suoi orizzonti. Lo fa in questo contesto di grande violenza, ma lo fa cominciando anche a ricevere delle minacce sempre meno velate, sempre più fisiche, che minacciano sempre di più gli affetti e la famiglia. E qui i due protagonisti hanno un approccio diverso. Lui è un uomo integerrimo, un puro, vorrebbe andare avanti solo con le forze della legge, male non fare, paura non avere, per intenderci, no? Lei, che viene da una famiglia criminale, invece, dice: risolviamolo in un altro modo. E questo snodo etico è il centro, il cuore del film, che ha la capacità di raccontare come si faceva una volta. È veramente, quel 1981 sembra quasi la data di produzione del film, ma lo dico come un fatto positivo. Certo. È un gran bel film anni 80. E quindi lo consigliamo a tutti coloro che hanno nostalgia di un certo film, che lo apprezzeranno moltissimo. Chiudiamo con un film del quale avevamo parlato tempo fa, perché lo diciamo spesso: i film vengono presentati nei festival, poi spariscono per mesi e vengono distribuiti molti molti mesi dopo, e chi ne ha sentito parlare durante i festival non si ricorda più cosa ne avevamo detto. Remember, Atom Egoyan. A proposito di ricordare, ecco, Remember. Appunto, assolutamente, Atom Egoyan è un regista di grandissimo talento, un po' discontinuo, lo ricordiamo, neanche più tanto giovane ormai, di origini armene ma canadese di adozione, e americano assolutamente di formazione cinematografica. Mette insieme un cast di grandi vecchi, fatemeli chiamare così, con tutto l'affetto, ma anche con tutta la statura che questi tre protagonisti hanno, soprattutto Christopher Plummer, che si porta sulle spalle praticamente tutto il film, ma poi anche Bruno Ganz e Martin Landau, che è un attore a cui sono particolarmente affezionato, perché attore che ha popolato i miei pomeriggi di telefilm di fantascienza negli anni 70 con Spazio 1999. Ebbene, i due amici, appunto Martin Landau e Christopher Plummer con grandi problemi di senilità che ormai gli stanno portando via la memoria. Martin Landau invece è su una sedia a rotelle, ma assolutamente fermo e lucido, e scogita un piano: mandare uno dei due, appunto Christopher Plummer, alla ricerca del boia che era stato il loro aguzzino ad Auschwitz. Ed è un film, quel Remember prende un significato chiaramente, certo, sul misurarsi quando proprio la memoria fisica ti sta abbandonando, misurarsi con la memoria storica, con un finale clamoroso, ve lo dico, clamoroso. A sorpresa, e quindi sì, insomma, io lo andrei a vedere questo film di Atom Egoyan, perché ne vale davvero la pena. Grazie Franco, l'appuntamento con te sabato prossimo e con La Rosa Purpurea dopo il GR delle 18. Tra poco alle 18 ci sentiamo, tutto il cinema che c'è, grazie Marta. Che bella questa colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino con la sonora di Ennio Morricone. Adesso c'è il giornale radio delle 16, poi saremo ancora insieme con Il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ed eccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, la seconda ora del Sabato del Villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Tanti gli argomenti anche per la seconda ora della nostra trasmissione. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666, numero che va bene anche per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato tanto di WhatsApp con Enrico Pagliarini nella prima ora. C'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, se preferiste usare questo social network. I temi della seconda ora del Sabato del Villaggio: la musica, annunciate le date del tour italiano estivo di Bruce Springsteen, le istruzioni per l'uso con due ospiti di eccezione. State con noi, ci sarà una sorpresa. I libri del momento con Alessandra Tedesco, i consumi con Maria Luisa Pezzali, ma prima sport e, perché no, anche spettacoli nella notte di domani. Pezzone questo dei Coldplay, perché la cosa che io so meglio di quello che succederà nella notte tra domenica e lunedì con la finale del Super Bowl sarà che suonano nell'intervallo i Coldplay. Io non sono proprio preparatissima sul football americano ed è per questo che ci colleghiamo con un super super esperto commentatore per Fox Sports, Roberto Gotta. Buongiorno Roberto. Buongiorno, ciao a tutti. Intanto dove sei in questo momento? Beh, sono a San Francisco dove si giocherà la partita. Diciamo che la partita si gioca poi a Santa Clara, che è a 70 chilometri, perché per una delle curiosità americane tutto è qui, ma la finale si svolge in uno stadio a 70 chilometri dalla città, che è lo stadio ufficialmente dei San Francisco 49ers. Ecco, ma a giocare sono, aspetta che ho studiato, i Denver Broncos e i Carolina Panthers. Esattamente, esattamente, due squadre molto diverse, perché la prima ha una storia pluridecennale, la seconda è nata solo 20 anni fa, però questo è anche il bello poi dello sport americano, notoriamente cerca di porre tutte le squadre su un unico piano competitivo. Cioè come se noi avessimo una Serie A in cui c'è una finale tra il Milan e una squadra di provincia, non so, ne dico due a caso, insomma, così. Sì, è così, perché lo sport americano professionistico fa sì che ogni anno, quando si devono scegliere i giocatori che hanno finito l'università, i giocatori vengano scelti prima dalle squadre peggiori, in ordine inverso alla classifica, per cui le squadre peggiori hanno la possibilità di scegliere i giocatori migliori e quindi mettersi alla pari con le altre. In questa maniera, costruendo bene, perché poi tutto resta basato sulla bravura delle persone che scelgono, ci sono tanti casi di giocatori poi rivelatisi quasi inutili, in questa maniera si può creare un'equità competitiva e ogni tifoso sa che la sua squadra, se ben gestita, nel giro di qualche anno può vincere il campionato. Beh, mi sembra straordinariamente democratico. Dici, c'è un esempio? Sì, beh, guarda, la curiosità è che nel paese del capitalismo lo sport professionistico a Masi dicono socialiste, ovvero a tutti una medesima opportunità. è però una definizione corretta. Ad esempio ce l'abbiamo con Carolina, perché il suo leader, il giocatore, il quarterback, quindi quello che lancia, che gestisce l'attacco della squadra, è stato scelto come numero uno, come primo giocatore uscito dal college alcuni anni fa. La sua squadra evidentemente era stata la peggiore l'anno prima. Va anche detto che le squadre possono cedere, mercanteggiare la posizione di scelta, per cui una squadra dice: non mi interessa nessuno dei giocatori, cedo la mia posizione di scelta a un'altra e in cambio prendo giocatori di livello inferiore che però magari assieme mi danno maggiore aiuto. Quindi questo è comunque uno degli esempi di quello che è successo. Dall'altra parte, il quarterback leader dei Denver Broncos è invece Peyton Manning, che è stato numero uno tantissimi anni fa, 13 anni più di Cam Newton, però è arrivato a Denver firmato, diciamo, era stato lasciato libero dalla squadra precedente. Beh, straordinario. Però chi è il favorito tra i Denver Broncos e i Carolina Panthers? Io direi che la bellezza di questa partita sta nel fatto che esiste una favorita che è Carolina, perché ha comunque ha un vigore, un entusiasmo, una difesa e un attacco veramente potenti, mentre dall'altra parte qualche dubbio in più c'è proprio su Manning, che fatica un pochino alla sua età a fare i lanci lunghissimi come una volta, lancia la palla molto più a raggio corto, perché ha comunque avuto anche 5 interventi al collo a livello cervicale, quindi ha dovuto un pochino limitarsi. Però molto spesso queste partite girano su un episodio e a volte veramente non c'è più modo di frenare questa valanga. Due anni fa i Broncos arrivarono alla finale non favoriti, ma comunque alla pari con l'altra squadra, praticamente alla prima azione subirono 2 punti a sorpresa e non si ripresero più. Ah, vedi, ma che belle queste lezioni di football americano, ne voglio ancora. Roberto, io che sono un'appassionata però di spettacoli, la prima cosa, l'ho detto, che io so è che ci sono i Coldplay, canterà l'inno Lady Gaga, ci sarà Beyoncé, ci sarà Bruno Mars, questo nell'intervallo. Per un appassionato e per un narratore, come dici tu su Twitter, narro per Fox Sports Italia, per un narratore come te, e la parte dell'intervallo, dell'halftime, è importante, o sei uno di quelli che dicono vabbè, in Italia poi si parla solo degli spot con le star e Credo sia inevitabile, considerando anche l'ora in cui poi va in onda la partita, in Italia inizia a mezzanotte e mezzo, preceduta da questo pre-partita che è sempre molto emozionante dal lato musicale, poi c'è l'inno nazionale americano, c'è il sorvolo dello stadio da parte dei aerei militari, c'è una forte connessione tra la Lega, NFL e il mondo militare. È inevitabile che in Italia si parli più di questo aspetto. Quelli che ci rimettono di più sono i giocatori, perché sono abituati a un intervallo di 15 minuti, questa volta viene raddoppiato. Per cui molti di loro dicono: siamo qua a scalpitare, vogliamo tornare in campo e non lo possiamo fare. Lo stesso Cam Newton, che è un personaggio molto particolare, molto divertente, molto carico, ha detto: ma io ho chiesto se all'allenatore si poteva farmi uscire un attimo prima a vedere Beyoncé, ma ovviamente non c'è stato verso, gli ha detto: no, tu devi stare qui con gli altri. Beh, effettivamente la tentazione di andare a sbirciare Beyoncé ce l'hanno. Allora, non che questi ragazzi non abbiano i mezzi per andarla a vedere in altri tempi, in altri momenti. Hanno occasione di avvicinare non solo Beyoncé, ma queste ragazze splendide. Diciamo che i giocatori di football americano non si fanno mancare neanche la cronaca rosa, e per questo ne conosco molti, solo per questo li conosco. Però tu hai detto ora in cui andrà in onda, quindi istruzioni per l'uso, noi in Italia la vedremo su Fox Sports. In Italia sarà attorno a mezzanotte e mezzo il calcio d'inizio, con precisione americana, anche se a volte tutta questa precisione non c'è, è per mezzanotte e 28. Ah, mezzanotte e 28. Dovete puntare i cronometri, non gli orologi. Esatto. E posso farti una domanda molto stupida, molto ingenua: quanto dura? Che ora andiamo a letto poi per svegliarci lunedì mattina? Si va a letto intorno alle 5:30. Urca! Perché poi la lunghezza della partita dipende anche, questa è una cosa particolare, da come giocano le squadre, perché il cronometro della partita si interrompe in alcuni momenti e invece va avanti in altri momenti. Quando una squadra corre con la palla, cioè c'è uno che viene data la palla, corre, rimane in campo anche quando viene placcato, l'orologio va avanti, mentre se esce dal campo l'orologio si ferma. Quindi per assurdo la lunghezza della partita dipende anche dall'atteggiamento tattico delle squadre. In alcuni casi si sente dire: ma questo primo quarto è andato via veloce. Ah, quindi è abbastanza imprevedibile anche quello. Beh, io farei notare una cosa, sì, tra l'altro, a proposito di tempi. Un paio di volte l'ho cronometrato dal vivo, il palco per un concerto pieno, vero, non una cosa in playback, viene allestito in non più di 5 minuti. Beh, incredibile. Quindi anche quello magari è da vedere, beh, se si riesce a vedere come dal nulla, 5 minuti dopo c'è un concerto a pieno titolo. E che concerti, perché se poi passano alla storia, sono esibizioni davvero passate alla storia. Anzi, si dice che alcune esecuzioni dell'inno americano, come quella di Whitney Houston, avrebbero proprio cambiato la storia di come è stato eseguito l'inno. Sono esibizioni molto particolari e molto importanti. Allora, Roberto, io do l'appuntamento con Fox Sports Italia dalle 12:28, mezzanotte e 28. Voi cominciate prima. Bene. Con uno studio nel quale temo che mi esibirò in alcuni exploit di reportage da qua giù, perché mi sono divertito a svolgere alcune delle finte azioni di gioco che fanno alla cosiddetta NFL Experience, che è una specie di parco di divertimenti a tema football. Risultati imbarazzanti, ma probabilmente anche televisivi. Allora non posso perdermeli. Grazie Roberto Gotto per essere stato con noi. Buona giornata californiana. Allora, a presto, buon Super Bowl. Ciao a voi, grazie. Grazie Roberto, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il traffico. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri. Ed è una citazione un po' cinematografica quella con cui partiamo in questo spazio dedicato ai libri con Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Hai colto. Tanto l'hanno visto tutti questo film praticamente. Magari un po' meno avranno letto il libro, no, ma forse siamo pari stavolta. Sì, guarda, secondo me tanti hanno visto il film perché hanno letto il libro e tanti hanno letto il libro perché hanno visto il film. E allora diciamo di che cosa stiamo parlando. Allora, della ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, che è una scrittrice americana che ormai da anni vive a Londra. In realtà questo è un romanzo vecchio di 20 anni. Tu dici, perché certo, ne stiamo parlando adesso perché uno dei romanzi di cui si sta parlando in queste settimane in Italia è l'ultimo romanzo di Tracy Chevalier, I frutti del vento, che è stato pubblicato in Italia da Neri Pozza, con la traduzione, ricordiamo sempre, assolutamente i traduttori, di Massimo Ortelio. Anche in questo caso si tratta di un romanzo storico. Chevalier, insomma, va sempre nel passato. Siamo nell'America dell'Ottocento, quando c'è la corsa verso la palude nera dell'Ohio. Perché che cosa succedeva in questo luogo così ostile anche all'agricoltura, alla coltivazione? Chi riusciva a piantare un frutteto di almeno 50 alberi diventava automaticamente proprietario di quell'appezzamento di terra. Allora, Tracy Chevalier, partendo da questo fatto storico, ha inventato una storia di fantasia di una coppia. C'è un uomo, James, e la moglie Sadie. James ama le mele, ama piantare appunto alberi di mele, le ama proprio in particolar modo, ha proprio una passione per tutti i tipi di mele. Invece la moglie Sadie non gliene frega niente sostanzialmente, nel senso che le usa solo per fare l'acquavite per ubriacarsi. Lei è una donna molto rancorosa. Pensavo già delle torte sontuose. Ma che lei, questa è una donna tosta, nel senso che si ubriaca, è rancorosa e anche un po' cattivella, sia col marito che con, credo, una decina di figli. Adesso non ricordo bene quanti ne ha. È ovvio che dopo sei arrabbiata però. E quindi tutto il romanzo è costruito, la prima parte su questa cupezza, sul fatto di riuscire a strappare al fango, alla povertà di tutto questi appezzamenti di terra e riuscire veramente a coltivarli, e una seconda parte invece più luminosa, in cui vediamo come protagonista uno dei figli di questa coppia, Robert, che cercherà insomma di fare lo stesso lavoro del padre, però da un'altra parte, in un altro territorio, e incontra una donna, una prostituta, che è invece una donna dolcissima, tenerissima, avvolgente, materna, esattamente il contrario di quello che era stata sua madre. Quindi ci sono questi due. Delle mele. La mamma delle mele. Ci sono questi due personaggi femminili che sono assolutamente in contrasto. Sadie è invece la moglie di Robert, del figlio. Chiaramente, insomma, abbiamo incontrato Tracy Chevalier, è inutile dirlo, la sentirete poi in versione estesa questa sera nel Cacciatore di Libri alle 22. E la cosa che mi incuriosisce sempre quando un autore fa un'opera che diventa poi un best seller e long seller, che tipo di rapporto ha con quest'opera? Perché diventa un po' un peso, odio, amore, insomma, non dico che sia un ostacolo, ma ogni volta che inizi a scrivere un altro romanzo ti domandi, ma venderà quei 4 milioni di copie come La ragazza dell'orecchino di perla? E allora sentiamo che cosa ci ha risposto Tracy Chevalier con la traduzione di Chiara Serafin. I don't think the book is an obstacle because my writing now is sicuramente non rappresenta un ostacolo, perché dopo tanti anni la mia scrittura al giorno d'oggi è qualcosa di diverso, si è sicuramente evoluta da allora. Non dimentichiamo che Una ragazza con l'orecchino di perla è stato scritto nel 1998, quindi tanti tanti anni fa. E in un certo senso percepisco adesso la distanza da questo libro, è una distanza affettuosa, è come se questo libro fosse una sorta di figlio cresciuto, cioè quando sei genitore i tuoi figli crescono, sono quasi adulti, tu ovviamente li ami ancora moltissimo, però non sei più al corrente della loro vita quotidiana, non conosci i dettagli, eccetera, eccetera. Va detto che io non ho mai più riletto questo romanzo dal momento della pubblicazione, ho letto solo determinate parti e quindi sento una sorta di distacco nei suoi confronti, ma anche se mi rendo conto che i lettori spesso si sono avvicinati a me grazie a questo romanzo. Ogni volta che mi accingo a scrivere un nuovo romanzo cerco come sempre di fare del mio meglio e cerco di non farmi influenzare da questo libro, che comunque non vedo più come un ostacolo, bensì come un trampolino di lancio che ha permesso alla mia carriera di scrittrice di decollare. Girl, the Pearl Earring, the success of it be an obstacle, but simply something that has allowed me to make a career in writing. E questa era la Tracy Chevalier, che appunto si dice sempre, ah, quella che ha scritto La ragazza, però adesso è I frutti del vento. Sì, I frutti del vento è un libro che consiglio sicuramente alle persone che hanno amato la ragazza dallo colorecchino di perla e che amano in genere i romanzi storici, perché qua c'è un fondo di storia piuttosto consistente, c'è anche una storia romantica, ma no, non so, non potrei dire romantica, è una storia di vita, in realtà è una storia di emozione, è una storia di vita, quindi insomma tutte le persone che amano i romanzi storici. Io devo dire, romanzi storici non mi piacciono, però l'America di quegli anni mi affascina molto. Le mele. Le mele, il tempo delle mele. Alessandra, c'era ancora qualcosa che mi volevi segnalare di sì, questo perché, Frutti del Vento? A proposito, mi è venuto in mente, pensando a Tracy Chevalier e alla ragazza con l'orecchino di perla, no? Che sappiamo, quadro famosissimo di Vermeer, un paio di anni fa è stato esposto in una mostra a Bologna, mi ricordo, ero andato a vederlo e ero rimasta un pochino delusa perché piccolissimo, è molto emozionante ma piccolissimo. E mi è venuto in mente che proprio questa settimana in How to Spend It, che è un giornale insomma che viene allegato al Sole 24 Ore, c'è un articolo molto carino, molto interessante, che si intitola Un soggiorno per Matisse, cioè praticamente abitazioni private vengono costruite intorno a una o più opere d'arte, quindi ci sono degli architetti che prendono l'opera d'arte, cioè hai, non dico un Caravaggio, ma dico appunto hai un Matisse e intorno ci costruisci tutta la casa. Io che cos'ho? Ho la stampa di Picasso, che non è esattamente la stessa cosa, quindi non ho avuto un architetto che mi ha arredato la casa, però a me piace lo stesso. Ma sai che anch'io l'ho fatto? No, anche non tu. Ho nemmeno io Matisse, però il mio soggiorno è tutto arredato attorno ovviamente a due grandi e bellissime locandine originali da me medesima rubate, staccate dal muro in due Ladra. Vecchie edizioni del Festival di Sanremo. Vabbè, la cagnola si sta preparando a sì, partire per sì, il Festival di Sanremo, quindi insomma la seguiremo tutta la settimana perché ci darà tutti gli aggiornamenti, poi ci sarà anche Enrico Ruggeri che darà, come dire, la sua visione da embedded, si può dire così, da partecipante alla gara, mentre la cagnola ci darà tutti i suoi retroscena dietro le quinte curiosità dal Festival di Sanremo. Si parte domani mentre il festival parte martedì. Andiamo al libro di cui si parla? Electric Lights Blow my mind, but I feel alright. Anche qui una colonna sonora di un film appena uscito? Sì, un film che è uscito a gennaio, io l'avevo visto in anteprima al festival, al Noir Festival di Courmayeur. Certo. Piccoli brividi, ma perché ne parliamo a proposito di libri? Perché Piccoli brividi è una collana per ragazzi di romanzi diciamo un po' paurosi che è stata inventata parecchi anni fa negli Stati Uniti e adesso viene ripubblicata in Italia appunto perché è uscito il film. Diciamo che si tratta di romanzi piccoli oppure di racconti scritti dall'americano Robert Lawrence Steen, meglio conosciuto come R. L. Steen. Sai che insomma i giallisti preferiscono anche i giallisti per ragazzi. Sì. In Italia sono comparsi nel 95, ha iniziato a pubblicarli e li pubblica tuttora Mondadori. Sono in realtà apparentemente degli horror. In realtà evocano, diciamo, alcune paure tipiche dei ragazzini, non sono però diciamo pulp. I protagonisti sono sempre fra i 12 e i 14 anni, come il pubblico appunto al quale sono rivolto. C'è sempre un finale d'effetto, però ecco, giusto per darti un'idea, la casa era buia, ma non era vuota. Al piano di sopra una tavola di legno scricchiolò. Cioè è più questo il genere, non è certo, l'horror, è un certo. Po' la sensazione della paura che può accompagnare appunto i ragazzi. E adesso è appunto, si sta parlando di questo Piccoli Brividi, che come dire, un mix di tutti i romanzi messi insieme, cioè è quello che è stato rappresentato nel film, ossia protagonista un ragazzino, viene attirato da una coetanea solitaria che abita nella casa di fronte. Un giorno lui va a trovarla, però lui non sa che lei è la figlia dello scrittore che ha inventato Piccoli Brividi. Fa cadere okay. per caso dei libri nella biblioteca ed escono dalle pagine di questi libri i personaggi mostri, insomma, che alla fine invadono la città. Quindi non so, c'è l'abominevole uomo delle nevi di Pasadena, ma quello, ve lo giuro, io mi spavento parecchio, però niente, Slappy. Ricordatevi questo nome, Slappy. Alessandra, abbiamo ancora due minuti per uno o due consigli al volo. Allora, c'è un classico che è tornato di moda. Sì. E ogni tanto mi piace ritirarli fuori i classici. In realtà si tratta di un testo teatrale, Casa di Bambola. Se ne sta parlando molto perché in scena, per esempio, a Milano al Teatro Franco Parenti con Filippo Timi, bravo, un attore. Molto insomma affascinante e amato, oltre che essere scrittore, perché ha scritto anche dei libri. E quindi io ho recuperato questo Casa di Bambola scritto dal norvegese Ibsen. L'avevo letto a 12 anni quando ero nella fase, sai, femminista, perché c'era questa storia di questa donna che faceva tutta la mammoletta in casa, Nora, col marito, tutta così vezzosa, molto succube del marito, viene chiamata allodola, lei praticamente si comporta come una bambina capricciosa, diventa triste se il marito le vieta di mangiare i dolci. Io l'avrei pestato se qualcuno mi avesse vietato di mangiare i dolci. Insomma, poi in realtà ha un epilogo femminista per il quale Ibsen all'epoca, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, fu molto criticato. Per me era stata una svolta a quell'età, perché è stato un testo molto femminista. Diciamo che la rappresentazione teatrale è un pochino più edulcorata, cioè si nota meno la pressione dell'uomo sulla donna, si vede meno come questa donna è proprio schiacciata dalla figura del maschio e del marito. Però insomma valgono la pena sia lo spettacolo che naturalmente il testo di Ibsen. Alessandra, per concludere? Guarda, per concludere, avevamo fatto una scommessa la scorsa settimana, no? Chi avrebbe vinto fra Dario Fo e Mauro Garofalo? I due libri sono Alla fine di ogni cosa di Mauro Garofalo e Razza di Zingaro di Dario Fo, che raccontano la stessa storia del pugile Zingaro vissuto nella Germania nazista. La risposta ancora non ce l'ho, perché devo finire di leggere entrambi i libri. Quindi, la sincerità. Quindi potete continuare a twittare, citate Il sabato del villaggio, Ale Teddina, vedete voi, e se li avete letti ci dite quali di questi due libri usciti in contemporanea con una copertina simile che raccontano la stessa storia vi è piaciuto di più, quello dell'esordiente Mauro Garofalo o quello del premio Nobel Dario Fo. Dateci la vostra risposta, la mia la prossima settimana. Alessandra, abbiamo già dato l'appuntamento con Il cacciatore di libri, Tracy Chevalier, questa sera alle 22. Allora ricordiamo il podcast. Il podcast, come sempre, se vi svegliate presto il sabato mattina alle 6:30. Poi dopo Tracy Chevalier ci sarà anche Federica Bosco, che è un'altra scrittrice molto amata dalle donne italiane. Il tuo account di Twitter, @ Ale Teddina, e al prossimo sabato. Ciao Marta. Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, E sì, in effetti Matteo da Salerno al 349-238-6666 dice che la ragazza con l'orecchino di perla a volte fa lo stesso effetto della Mona Lisa al Louvre, perché quando arrivi nella stanza della Mona Lisa ti aspetti un quadro grandissimo, invece è piccino. È vero, però vabbè, sono piccini ma di una certa importanza. Sono le 16:29:43 secondi in questo momento a Radio 24, ci fermiamo per pochissimo per una breve pausa, poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio, come sempre a quest'ora, è il momento di parlare di consumi. E quindi io dalla musica capisco che torniamo a parlare di Star Wars, ma come mai? Lo chiediamo subito alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, torniamo a parlare di Star Wars perché proprio grazie al nuovo episodio della saga e a tutto il mondo di prodotti che ci gira intorno, Disney quest'anno è il brand più potente al mondo. Quindi ricordiamo per chi non lo sapesse, Star Wars è un brand legato a Disney, quindi Disney non è più solo Topolino, Paperino, dobbiamo metterci nell'ordine delle idee che tante tante altre cose. Tra l'altro Star Wars è andato benissimo anche al cinema, sono appena arrivati i dati, è stato il film in Italia più visto a dicembre, pre Checco Zalone ovviamente, 2.687.000 presenze, ma non solo cinema dunque. Non solo cinema, perché appunto diciamolo, Disney possiede la Lucasfilm, quindi che produce Star Wars, il film ha spinto tutto l'universo Disney come forza del brand in avanti. Questa società Brand Finance, specializzata nella valutazione dei brand, è una di quelle società che periodicamente, una volta all'anno, emette la famosa classifica dei brand con più forza al mondo. Ne classifica 500 in due diverse liste, quelli più forti e quelli a maggior valore, perché i parametri sono diversi, i risultati anche. Ebbene, quest'anno appunto Disney è in cima alla lista di quelli più forti proprio grazie al risveglio della forza. Citavi tu gli incassi italiani, è anche a livello globale il film Disney che ha incassato di più in assoluto, ad oggi 2 miliardi di dollari. Questi dati sono citati appunto nella classifica. Nel frattempo, per venire all'universo consumi, i giocattoli di Star Wars hanno già generato oltre 700 milioni di dollari. Però tra l'altro io non so quanto di questa mania Star Wars, ovviamente una battuta, viene dalla mania per i giochini che adesso danno in regalo all'esse lunga in tante... I Rollins. Mamma mia, io non so quanti messaggi ricevo, e tutti coloro che abitano in grandi città del nord, centro nord, dove c'è l'esse lunga, perché adesso danno in regalo questi personaggetti di Star Wars, e non lo so, sono impazziti tutti. Una grande collezione, sì, di successo in questo esse lunga, insomma, ci vede sempre molto bene, quindi i bambini ormai lo scambio. Le figurine non ci sono più, ci sono i Rollins. Infatti. Mia figlia ha già completato la classifica, la raccolta. Bravissima. Allora, dicevamo, da tutto il merchandising del film Disney ha previsto incassi per 5 miliardi di dollari nel 2016. Del resto, Marta, ti ricordi, l'abbiamo citata come super tendenza per i regali di Natale. L'abbiamo citata settimana scorsa per i costumi di carnevale. Insomma, questi sono proprio i mesi caratterizzati da questo film. La società Brand Finance ha misurato il valore della sola marca Star Wars in 10 miliardi di dollari. Un bel colpo, tra l'altro, se si pensa che Disney ha pagato nel 2012 tutta la Lucasfilm 4 miliardi di dollari. Quindi... però è stato un investimento esatto, oculato. E poi, insomma, è bello, Marta, vedere tra le righe di questa tipologia di classifiche le abitudini, i prodotti che popolano un po' le nostre abitudini. Parla di noi poi di anno in anno, sì, cambia. Allora racconta un po' qualche curiosità. Beh, al secondo posto c'è un altro brand legato all'universo kids, che è Lego. Del quale avevamo parlato l'anno scorso. Lego va sempre benissimo, allora. Sì, perché aveva scalzato, e fece notizia in quel senso l'anno scorso, aveva scalzato Ferrari. E anche in quel caso grazie ad un film, grazie al successo di The Lego Movie. Ah, quindi i film, legarsi ai film fa bene. Quindi i direttori marketing, insomma, sì. sono avvisati. I direttori marketing all'ascolto prendano nota che non so se è solo che porta bene dal punto di vista della fortuna o se è veramente qualcosa, una strategia intelligente. Esatto. E poi, ancora. Al terzo posto non solo bambini, anche le donne. Al terzo posto c'è L'Oreal. Ah, perché loro valgono. Esatto. Va bene. Anche se bisogna dire che in tutto il mondo della cosmetica il target maschile è sempre più presente, anzi è quello con dei tassi di crescita in termini di consumi molto molto interessanti. Poi ci sono dei brand finanziari, restiamo all'universo consumi, al sesto posto c'è Nike, all'ottavo Coca-Cola e poi abbiamo al decimo Google, all'undicesimo Harley Davidson, che farà piacere a tutti gli appassionati. Ma pensa, un brand così, così forte, così famoso. Ma ci sono anche dei brand italiani? Stavo cercando di capire se ci sono dei brand italiani in questa classifica. No, in questo ristretto gruppo dei brand più forti, per così dire, no, non ci sono. Ci sono invece nella classifica generale, che è quella dei brand a maggior valore. Abbiamo detto... Ferrari quindi è uscita da questo ristretto gruppo dei brand più forti e ovviamente è presente in quella dei brand a maggior valore al 332esimo posto, però su 500. Accidenti. In cima invece a questa classifica c'è Apple, incontrastata e non ha subito variazioni rispetto all'anno scorso. Al secondo posto c'è Google, Marta, che ha scalzato invece rispetto all'anno scorso Samsung, che è scivolato in terza posizione. Quindi insomma il podio è tecnologico assolutamente, non c'è niente tecnologico da fare. E poi in grande ascesa i brand cinesi. Ah certo, come certo. WeChat e Huawei, e quindi anche questo racconta qualcosa della mappa dei consumi di oggi. E dicevamo le abitudini, ma non solo, anche gli scandali, l'attualità, perché certo. Quest'anno è andata malissimo Volkswagen per lo scandalo delle emissioni. Ha il risultato peggiore, vale 18,9 miliardi di dollari, meno 12 miliardi, e quindi passa dalla 17esima alla 56esima posizione, insomma. Accidenti. Uno smacco, diciamo così. Poi facendo scorrere la top 10, molto bene Amazon, che dall'ottava posizione l'anno scorso arriva alla quarta, poi c'è Microsoft, Verizon, AT&T e poi Walmart, insomma universo consumi negli Stati Uniti, China Mobile al nono posto, insomma è divertente. Divertente, poi davvero racconta molto di noi. È il momento dei nostri consigli anticrisi, delle nostre strategie? Andiamo a sentire cosa ci racconta questa settimana Cristina Lazzati, ce l'abbiamo in linea, ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti, parliamo anche noi di auto, ma questa volta parliamo di un'auto con... come dire, meno affezione alla proprietà e un pochino più di affezione all'utilizzo. Molti di voi avrete sentito parlare di noleggio a lungo termine, sembrava una cosa solo per aziende, e invece da un po' di tempo questa parte è anche per i privati. E proprio in virtù di questo CarServer ha organizzato un nuovo servizio che si chiama Drive Different, in questo momento disponibile su Milano e su Reggio Emilia, anzi su Assago e Reggio Emilia, in collaborazione con la COP. E quindi cosa significa? Significa che a parte che esserci un sito drivedifferent.it dove si può andare e scegliere l'auto che più ci piace, di fatto pagheremmo una quota mensile più un down payment di 2.000 euro per le macchine più piccole, 4.000-5.000 per le berline, e poi via via c'è tutta la scala prezzi, e poi ogni mese dai 150 ai 400 euro più o meno per avere la macchina che ci piace di più. La cosa carina è che normalmente noi utilizziamo l'auto magari tutto l'anno per andare in ufficio piuttosto che per giri cittadini, poi magari nel mese di agosto avremo bisogno di una macchina più grande, però che ce ne facciamo una macchina grande quando tutto l'anno consuma di più e così via. Ecco, con Drive Different, volendo, si può scegliere questa formula Roomy Car in cui per un mese all'anno si può optare per una nuova macchina. La casco è compresa, la macchina di servizio nel caso in cui dovessimo fare un incidente piuttosto che si dovesse rompere, si può avere anche la macchina di servizio. Quindi a tutti gli effetti come quella del vostro amico, tra virgolette, che ha l'auto aziendale, però non sarà aziendale, ma ci si toglie, non si paga ovviamente la tassa di proprietà, il bollo è compreso. E sul sito la cosa carina è che ognuno si può scegliere l'auto, si può mettere tutte le opzioni in più e meno che si vogliono, e di fatto ti dice anche quanto andrai a risparmiare rispetto all'acquisto di un'auto nuova. Sempre più un servizio e non un bene da possedere, dunque, Cristina. Ecco, direi che proprio in questo senso, diciamo che non siamo, abbiamo parlato tante volte di sharing economy, non è fino a questo punto, però di fatto sembra che l'auto, e infatti i dati rilasciati da poco da Findomestic proprio sulla Lombardia dicono che ad esempio Milano è la città della Lombardia dove si sono immatricolate meno auto, quindi possiamo dire che in linea di massima il bisogno di possedere ci sta abbandonando, e questo viva Dio. E possiamo anche aggiungere che laddove c'è più servizio e ci sono più mezzi, l'auto non diventa più un obbligo, ma bensì un piacere piuttosto che una scelta. Ma ad esempio per noi che abitiamo fuori città e quindi l'auto la usiamo tutti i giorni, leggevo, stavo curiosando il sito mentre parlavi, questo Drive Different, si riesce comunque a risparmiare? Cioè spiegano che il noleggio a lungo termine è conveniente rispetto all'acquisto? Assolutamente sì, anche perché se pensi, non so, ad esempio, magari vuoi andare in vacanza un mese, ti prendi magari la macchina più grande, a benzina, a gasolio, ma lì puoi prendere anche la macchina a metano. E quindi, di fatto, anche solo cambiare tipologia di carburante ti cambia la vita, perché ovviamente se fai anche il classico tragitto, quello urbano, che è quello che consuma più carburante, ovviamente nel momento in cui metano ci pensi meno e peraltro aiuti anche un po' di più il pianeta. Lo so, perché io guido una macchina metano ormai da 7 anni, quindi sono preparatissima. Sì. Sei un idolo per il mondo green. Io vado a metano da 7 anni, Maria Luisa. E poi Cristina, farei anche un'altra sottolineatura: questa partnership inedita racconta anche molto della trasformazione dei supermercati, no? Perché trovano sempre più spazio anche nei supermercati in realtà di servizio, appunto, anche le visite specialistiche, le visite mediche nei supermercati, che stanno molto trasformando questi come luoghi anche appunto di servizio, non solo di acquisto prodotti. Ma a questo aggiungiamo anche il fatto che, oltre ad avere, come dire, un tempo l'ipermercato si diceva tutto sotto lo stesso tetto, ma parlavano di merci. Oggi magari questo desiderio di avere tutto sotto lo stesso tetto in un ipermercato c'è meno, ma c'è sicuramente un bisogno maggiore di risparmiare tempo, quindi andare in un centro commerciale dove comunque puoi fare un salto dal dentista piuttosto che fare la mammografia, per citare due cose che comunque si fanno più o meno spesso, o i prelievi del sangue. Questo effettivamente è un grande risparmio di tempo, nonché chiaramente, trovandosi in una condizione un pochino più concorrenziale, anche il costo del servizio si abbassa. Aggiungiamo il fatto, visto che l'hai citato, che in questo caso Coop motiva questa scelta anche per andare incontro a dei beni, a dei consumi obbligati, perché come giustamente sottolineavate prima, chi fa avanti e indietro per andare al lavoro, che abita fuori Milano, e la macchina è un consumo obbligato che comunque incide moltissimo sulla spesa dei consumatori, e quindi in questo modo, andando loro incontro, facilitandole, facendoli spendere un po' meno, sicuramente è una, come dire, il supermercato dalla parte dei propri clienti. Aggiungo il fatto che appunto per i soci di Coop Lombardia ci sarà uno sconto di 200 euro poi sulla spesa se scelgono Drive Different, e anche una serie di sconti aggiuntivi nel momento in cui presentano la tessera di socio. Mi piace molto, anche perché secondo me è il segno di qualcosa che sta cambiando, e che sta cambiando nel verso giusto. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. A presto, Cristina. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Ciao. E a te invece, Maria Luisa, l'appuntamento domani. Con Essere Avere, quando? Alle 22, dopo il GR delle 22. E poi ci risentiamo la prossima settimana nel Sabato del Villaggio. Ciao, a sabato prossimo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento Il Sabato del Villaggio. Abbiamo sentito un ciao Roma, Bruce Springsteen era a Roma in questo Spirit in the Night, ma tornerà a Roma, Milano e Roma. Siamo già pronti, siamo già particolarmente agitati, 3 luglio Milano San Siro, 16 luglio Roma Circo Massimo, torna il boss, torna Bruce Springsteen in Italia. Allora io da un sacco di tempo dicevo a questo collega di Radio 24, perché è un collega di Radio 24, sì vabbè, tu parli di economia e finanza, i conti della belva, ma la tua vera preparazione è solo, diciamo, quella rocchettara, quella springsteeniana. Allora, vi racconto subito come si presenta nella sua biografia di Twitter: liberale, liberista, libertino, springsteeniano, appunto, arleista. Ce l'abbiamo dai conti della belva direttamente catapultato nel pomeriggio del sabato del villaggio, Renato Cifrelli. Buongiorno Renato. Ciao Marta, come stai? Bene, questa mattina non ci siamo incrociati in radio, però voglio sapere com'è la tua attesa di queste date italiane del boss. Beh, l'attesa è la solita, si parlava un'oretta fa con le mie figlie, perché oggi eravamo al pranzo, oggi non ero in radio perché avevo il pranzo per gli 85 anni del papà. Auguri, quindi, auguri, bello. E quindi c'era tutta la famiglia e con le mie figlie si diceva: allora, martedì mattina tutti pronti, ognuno su un computer diverso per comprare i biglietti per Milano, il Prato. Quanti anni hanno le tue figlie? Le mie figlie hanno 26 e 24 anni. Ah beh, quindi sono assolutamente autonome e più rapide di te e li troveranno loro. L'ultima volta, all'ultimo San Siro, devo dire che questo è il sesto San Siro che viene organizzato, è il sesto concerto che c'è a San Siro e io mi pregio di essere sempre stato presente. Quanti concerti del boss hai visto? Non li ho mai contati, credo intorno al centinaio. Beh, incredibile. Primo concerto di Bruce visto nella tua vita? Zurigo 81, come moltissimi italiani. Gli springsteeniani sono divisi a fasce. Noi abbiamo tutta una serie di cose stranissime. Cioè tipo gradi, diciamo, militari? Esatto, i gradi militari che dipendono un po' dall'anzianità. È evidente che poi l'anzianità dipende anche dall'età che hai. Io faccio parte, diciamo, del gota di quelli che hanno cominciato nel 1981, quindi è passato qualche anno a seguire Springsteen e fu una illuminazione per moltissima gente che come me era Zurigo 81. Tieni conto che Zurigo 81 era il The River Tour originale, quello certo, che oggi lui sta ripetendo in questo giro, insomma. Beh, fantastico, quindi è un ritorno. Allora, hai detto che martedì mattina tu sarai lì, tu, le tue figlie, tutti pronti. Abbiamo bisogno di sapere tutte le istruzioni per l'uso. Io già non ce la faccio più con tutte le persone che mi chiedono come si fa, come si farà, che cosa succederà. Allora, noi abbiamo chiamato l'unica persona che ci sa dire cosa succederà e che ci sa dire, magari ci sa dare anche qualche consiglio per riuscire a vedere il boss in queste due date. L'uomo che è riuscito a portare il boss e non solo in Italia tante volte e che lo farà di nuovo, grandissimo, leggendario, organizzatore di concerti. Buongiorno Claudio Trotta, buongiorno Claudio. Buongiorno a voi, come va? Ciao Renato. Ciao. Fantastico, due springsteeniani altro che di platino. Claudio, tu hai qualche pomeriggio fa ci avevi anticipato che avresti dato l'annuncio delle date sui social e quindi io ero pronta, avevi detto alle 15, quindi io ero lì pronta a fare F5, F5, refresh, Twitter, Facebook sui tuoi account perché aspettavamo le indicazioni. Sono stato in ritardo. Ma guarda, io avevo tutta un'ansia e poi ti confesso che quando sono usciti io da sola urlavo in redazione: sono uscite le date, e nessuno che mi guardava. Ma nessuno capiva il mio momento di compartecipazione. Come sei arrivato a queste due date? Quello che ci puoi raccontare, insomma, Claudio? Ma guarda, innanzitutto Bruce manca dall'Europa da 3 anni, cioè nel 2016 sono 3 anni. In questi 3 anni ci sono stati ovviamente, come sempre, tanti contatti con il suo management, con la sua agenzia, con un del leggendario George Travis, il suo braccio destro del live. E come dire, ci sono state anche tante possibilità che decidesse di venire in Europa. Dopodiché si è finalmente deciso molto tardivamente, perché l'ha fatto veramente, come dire, quasi all'ultimo momento possibile. E le cose sono anche cambiate spesso e volentieri in corso d'opera, nel senso che c'erano delle altre date opzionate in Italia, c'erano dei periodi diversi, si è parlato di tante possibilità, si è parlato di un periodo corto, poi il periodo si è allungato, insomma le variabili sono state tante. In questo periodo c'è stata anche una cosa molto bella, io mi sono divertito come un matto, credo anche molti di quelli che hanno capito lo spirito. C'è stato su Facebook e nei social un crescendo di attesa. Vero. Che io ho pensato di condividere insieme a tutti quelli che come me amano la vita, amano la musica e amano anche divertirsi. Bello, è stato un divertimento, no? Anche aspettare il tuo annuncio, è stato un... Esatto, sì. Non ho mai giocato sporco, fra virgolette, su questo annuncio, nel senso che io non ho annunciato fino a quando non potevo annunciare. E come si è arrivati? Si è arrivati che a un certo punto finalmente, devo dire anche con delle mie notevoli pressioni, perché per la prima volta, anche questo forse qualcuno è sfuggito, le date italiane sono state annunciate prima di tutto il resto dell'Europa, perché bellissimo. Con l'eccezione di Lisbona, Rock in Rio, che è un festival peraltro, e che peraltro si svolge in una location che a me non piace affatto, ma questo è un mio parere personale, no, perché bisogna sempre essere stirofili a tutti i costi. No, è vero. Allora bisognerebbe anche ricordare magari che ci sono delle location all'estero che sono pessime, non è che sono solo pessime in Italia le location, sono anche all'estero. Ma vabbè, questo non è polemica, è solamente un dato di fatto. E quindi noi abbiamo annunciato l'Italia prima di tutto il resto d'Europa, perché io ho voluto fortemente che fosse così, perché ho percepito che i 150.000 fans italiani non ne potessero più aspettare. E quindi ho fatto io personalmente delle notevoli pressioni. A posteriori forse ho sbagliato, perché questo ha portato ad alcune anche spiacevoli ammenicoli, di cui non ho intenzione di parlare. Ma tanto c'è sempre qualcuno che non è contento, che okay. Succede sempre. Però resto felice di averlo fatto, resto felice di aver comunque anche questa volta contribuito a tenere i prezzi in Italia più bassi che tutto il resto d'Europa. Quando ci saranno i prezzi pubblicati tutto il resto d'Europa, questo verrà fuori molto chiaramente. L'ho fatto in tutti e 36 concerti che ho precedentemente organizzato in Italia con Bruce, perché i miei prezzi sono sempre stati i più bassi di tutta Europa e l'ho voluto io e fortemente certo. io con la mia società. E niente, adesso sono ben felice. Cosa succederà martedì? Ecco, un gran appunto. Casino. Sai che martedì succederà un gran casino, ma è abbastanza semplice. Ma c'è qualche consiglio che si può dare? No, bisogna essere un po' fortunati per mettere tutti i parenti. Il consiglio di prendere la vita con questa. Filosofia, di ricordarsi che comunque stiamo parlando non di un bene di primo consumo, perché i beni di primo consumo sono le medicine, sono il mangiare, sul quale molte multinazionali speculano vergognosamente vendendoci delle cose che fanno schifo con sovrapprezzi scandalosi, e magari capire che un concerto è sicuramente importante, ma che se non si riesce a comprare quel biglietto per quel posto lì, proprio quando non si vuole, non è la fine del mondo. E non è che per questo c'è qualcuno che sta tramando contro di te, speculando sì, perché c'è sempre di te, qualche dubbio male, dietro. È il demonio, perché questo succederà. Claudio, ti chiedo solo una cosa al volo. Sono curiosa di sapere, San Siro sarà pieno, circo massimo, avete già deciso quali saranno le capienze e i biglietti? Quanti ce ne saranno? Dunque, a San Siro, anche qua, mi pregio di essere l'unico tra i miei colleghi che sta molto attento alla visibilità laterale, e noi non... come si dice in inglese, overbooking, le strutture, nel senso che noi stiamo molto attenti a non vendere dei posti dove crediamo non si veda, e quindi la capienza di San Siro, nostra canonica, è quella sui 56-57 mila. A Roma, per nostra scelta, vorrei precisarlo, come l'ho scritto anche sul mio Facebook, non perché non ci hanno fatto fare la capienza maggiore, abbiamo deciso deliberatamente di avere una capienza inferiore a quella dei Rolling Stone. L'onestone era 72.000, sì. 75.000, cosa del genere. Io l'ho voluto per 60.000, compresi gli omaggi, per un motivo molto semplice, perché reputo che Circo Massimo, che è una location meravigliosa e spettacolare, in ogni caso debba essere vivibile. Per essere vivibile non bisogna vendere troppi biglietti. Bellissimo, Claudio, io ti ringrazio davvero tanto. Martedì mattina siamo tutti lì col ditino pronto. Grazie. Col ditino pronto, ma considerando che il Prato ha la dimensione che ha e che quindi se 100.000 vogliono il Prato, almeno 90.000 alla fine saranno incazzati perché non è vero, avuto. Saranno tutti arrabbiati con te. Che non vengano a prendermi sotto casa perché non è colpa mia, va bene? Grazie a Claudio Trotta, ciao. Grazie. Ciao. Renato, allora abbiamo anche le capienze, in bocca al lupo per martedì, cosa possiamo dirci? Speriamo, Renato? Dai. Dobbiamo fare solo fino così. Oggi è sempre andata bene, quindi. Dai, ditino fortunato, speriamo bene tutti. Allora, appuntamento con Renato Cifarelli e i conti della Belva sabato mattina in radio con Bruce Springsteen a luglio. Noi invece, grazie Renato, a sabato prossimo. Ciao. Noi invece ci ritroviamo tra poco perché dopo il giornale radio delle 17, nel quale penso che parleremo ancora di rugby, dopo il giornale radio delle 17 ci troviamo per l'ultima ora del sabato del villaggio, quella di Radio Tube.